Credo che la guerra in Ucraina abbia un pochino sollevato la questione, che però è una questione che prosegue da diversi mesi. Certo, l'aumento delle materie prime è un tema che stiamo vivendo in queste settimane, in questo periodo, ma non è da imputare tutto appunto al conflitto che c'è in questo momento in Ucraina. Ci sono diverse crisi sovrapposte, possiamo elencare come l'emergenza climatica, la pandemia, il caro energia e adesso anche la guerra, che stanno generando effetti a catena sulle filiere internazionali delle materie prime, che sono alla base poi del sistema agroindustriale. Intanto dobbiamo distinguere un pochino tra le diverse materie prime, perché il loro prezzo è determinato da diverse cause. Pensiamo al grano duro, per esempio, che in questo momento sta subendo forti rincari, è il grano che usiamo per fare la pasta, ma la ragione principale è che lo scorso anno c'è stato un crollo della produzione canadese del 60%, canadesi che sono grandi, grandissimi produttori e l'Italia è forte importatrice di questo grano, ma il crollo della produzione canadese è dovuto a una lunghissima siccità, una siccità che noi possiamo imputare sempre più al fenomeno del cambiamento climatico. Quindi questo ha fatto sì che ci fosse uno shortage, lo chiamano, cioè una riduzione delle scorte, degli stoccaggi del grano e che quindi si temesse per la sua mancanza e che aumentassero di conseguenza i prezzi. Invece poi c'è il mais, che è il principale ingrediente nelle mangiatoie degli animali allevati, per il quale l'Italia comunque ha un basso tasso di, si dice, autoapprovvigionamento, cioè ne produce circa la metà di quello che consuma. Però anche qui l'Ucraina fornisce soltanto il 13% di tutte le importazioni che noi abbiamo di mais dall'estero, quindi anche qui la crisi ucraina è solo parzialmente responsabile dell'aumento dei prezzi. I forti rincari, tra l'altro, sono iniziati mesi fa con una ripresa della domanda cinese che era crollata in seguito all'arrivo dell'epidemia di peste suina, che ora sembra superata in quelle zone, per cui sono riprese fortemente le importazioni all'aumento della domanda, quindi fa seguito a una crescita dei prezzi. Poi c'è ancora un'altra materia prima molto interessante che è il grano tenero, quello che utilizziamo per fare il pane. E qui l'Italia è ancora meno autosufficiente dal punto di vista produttivo, cioè produce soltanto il 35% del grano tenero che gli serve per fare il pane e i prodotti da forno. Anche qui però di interessante da notare c'è che le importazioni italiane dipendono solo per il 6% dal grano tenero che viene prodotto in Russia e Ucraina. E quindi il boom dei prezzi è un pochino da imputare non tanto al conflitto quanto piuttosto a una speculazione finanziaria. Infatti il grano è una materia prima che viene scambiata in borsa praticamente, cioè la borsa di Chicago, la più famosa del mondo, dove si scambiano contratti, futures si chiamano, contratti su cui si scommette, che riguardano proprio il valore del grano. E quindi questo saliscendi speculativo è derivato da una dinamica più globale del mercato del grano, perché sebbene in Italia abbiamo poco acquisto di questo grano ucraino, invece Ucraina e Russia sono grandissimi fornitori di paesi della zona medio orientale, quindi paesi come Libano, come Tunisia, come Egitto, sono dipendenti tra il 40 e addirittura il 90-95% dalle forniture ucraine e russe di grano tenero, quindi il loro pane si fa con quel grano lì. Cosa succede nel momento in cui adesso nei porti è più difficile far partire i mercantili e inviare le materie prime in questi paesi? Succede che si teme un rischio del ripetersi di quelle primavere arabe che nel 2010-2011 scoppiarono anche per effetto di un caro prezzi alimentare che aveva sostanzialmente sconvolto le società che poi hanno dato vita a quelle rivoluzioni. Poi abbiamo ancora l'olio di girasole che è impiegato nella produzione di salse, conserve, maionese, altri prodotti insomma trasformati della grande distribuzione alimentare e qui invece l'Italia è fortemente dipendente dalle importazioni ucraine. Certo è che comunque forse per un periodo potremmo anche pagare qualcosa in più o in alternativa fare un po' a meno di quel tipo di prodotti che non sono proprio, come dire, la base della dieta che ci permette di svegliarci la mattina. Quindi ecco, abbiamo diverse crisi interconnesse, abbiamo materie prime i cui prezzi schizzano per aria, per adesso non possiamo totalmente imputarli alla crisi ucraino-russa. Quali sono le ricette dei governi rispetto a questa mancanza di materie prime? Penso in particolare alle materie prime agroalimentari. E come le commentate? Sono adeguate per voi? Qui c'è la parte forse più interessante. Cosa sta facendo l'Europa? Cosa stanno facendo i governi? Per adesso si sono riuniti lo scorso 2 marzo i ministri dell'agricoltura europei e si sono trovati d'accordo nel dire dobbiamo rivedere le strategie per la sostenibilità, quindi il Green Deal, il Farm to Fork, la Biodiversity Strategy e i loro target che ci chiedono di appunto ridurre i fertilizzanti, ridurre i pesticidi, aumentare la superficie a biologico e lasciare delle zone dei nostri campi agricoli incolte in modo che possano ripopolarsi di quella biodiversità, uccelli, insetti, impollinatori, api, che sta morendo fondamentalmente. Dobbiamo rivederle perché appunto abbiamo bisogno di riportare la produzione in casa di mais e altre colture proteiche, soprattutto per mangimi, primi degli allevamenti intensivi, visto che sul mercato internazionale c'è tutto questo ottovolante dei prezzi. A noi sembra un'idea davvero fuori dal tempo, fondamentalmente. Ci sembra anche sconsiderata che si utilizzi una guerra per poter far passare una deregolamentazione rispetto a dei pacchetti appena approvati, poi tra l'altro, cioè la Commissione von der Leyen ha varato Green Deal con tutte le sue strategie connesse non più tardi del 2020. Adesso ripensarlo immediatamente alla prima grande crisi che viviamo ci sembra totalmente inappropriato. Purtroppo ad attizzare questo tipo di soluzioni e di proposte c'è niente meno che tutta la grandissima lobby del COPACO-GECA, che è l'alleanza tra grandi gruppi dell'agricoltura europei e grandi gruppi delle cooperative agroalimentari europei, che hanno puntato proprio i target delle strategie europee che dovevano rendere il sistema alimentare più sostenibile e più ecologico, perché vogliono fondamentalmente affossarle, e quindi attaccano questa piccolissima percentuale di campi agricoli che dovrebbe rimanere lasciata incolta proprio per il rientro della biodiversità nei nostri cosiddetti agroecosistemi, e vogliono invece utilizzare pure queste fasce, seppur molto piccole, per piantare, coltivare, seminare mais e altre colture proteiche per gli allevamenti intensivi. Quindi ciò che dobbiamo fare è molto diverso, anzi dovremmo cominciare a cambiare totalmente il sistema alimentare, a fare sì che gli allevamenti intensivi rimangano sempre più un fatto del passato e che non abbiano più posto nelle nostre agricolture, nei nostri sistemi alimentari, e che tutti quei terreni agricoli che sono la maggior parte in Europa dedicati soltanto all'alimentazione animale vengano riconvertiti al più presto e nella maggior quota possibile a terreni dedicati all'alimentazione umana. Così facendo ci da un lato avremmo due benefici: da un lato la riduzione dell'allevamento animale, che ha degli impatti etici ed ecologici sicuramente molto forti; dall'altra parte avremmo tra l'altro un aumento della produzione del cibo nel nostro territorio, accorciando le filiere, permettendo alle persone di alimentarsi in maniera più sostenibile e stagionale e magari anche diversificata.